anche gli occhialini 3D, René, o no? Bravo, bravo. Fai col primo. La sigla non ce l'abbiamo? Io non ce l'ho. Io vado via se non c'è la sigla. Io ne manco. Ma te ce la dovresti avere fisso. Ciao, ragazzi. La sigla c'è. La sigla è su... bellissima. Ti senti lì? Anche l'introduzione in spagnolo. Una sottolina del sale, del spray, che ti farebbe. Ma non ce l'hai fissa sul... No, abbiamo anche la sigla, però lui ce l'ha mai. Beh, allora come sigla metti Cat Calloway, vai, tanto così ci... Su internet la scarichiamo. Sì, sì, è su internet, è buona. Ma in realtà non ce l'ho perché l'ha fatta quella nuova, dai. È su internet, c'è il wifi, c'è wifi, c'è wifi. Ma dov'è? Su YouTube? Su YouTube ce l'ha messo il Puddu, No, Puddu? Pensi sì. No, è lì, abbiamo trovato... No, ha avuto quasi 19 visualizzazioni. Come? Ma perché ha avuto quasi 19 visualizzazioni. Oh, no, questa siamo... sera 20. Sì, questa è anche. Ah, ok. Perciò, alla. Sta bello. Wifi molto bello. Molto bello. Ci sono anche le lingue. A parte, ma è che la casa offerta. Ti ha craccato la password in 2 secondi. È un hack. No, veramente non te lo dà. Metti Friends and Love Puddu. Staring. Puddu è una parola chiave, No, Puddu è la parola. È la keyword. Eccolo lì, ce l'abbiamo davvero, sai. Scatta l'applauso. Vai, oh, bellissimo. I broke down the chairs. I broke down the tables. I tried to find a key to fit me. anche la sigla. Abbiamo anche la sigla, visto che bello. Ma non ci manca, di quel che ci abbiamo non ci manca nulla. Dunque, stasera si parla di video. Intanto farei partire subito il primo, così ci scorre mentre... Sì. Devo abbassare? Sì, sì, sì, abbassare. No, non è questo. Non è questo? Dobbiamo un po' coordinare la regia. Sì. Benvenuti! Ecco. Basso, così sì. Ci fa compagnia mentre si... chiaramente questo si vede un po' male, ma è il video originale del 1932, quindi non possiamo pretendere che sia in alta definizione. Però, mentre si parla, ci fa compagnia Cab Calloway. Dunque, i video, che cos'è intanto un video? Cos'è che distingue un video dai filmati che promuovono una canzone? Un video è qualcosa che racconta comunque una storia, che narra qualcosa, che lo può narrare sia come una sceneggiatura, quindi una storia realmente sceneggiata, oppure può narrare delle immagini, può fare un racconto di immagini, non avere una sceneggiatura, ma comunque un filo logico attraverso le immagini. Non si può parlare veramente di una data di nascita del videoclip, non c'è un giorno in cui nasce il videoclip. In realtà già negli anni 20, quindi prima di questo, c'erano state delle unioni tra immagini e musica che si potrebbero far risalire ai videoclip. Ed erano due fotografi, Corra e Ginna, italiani, che avevano inventato una tecnica per cui disegnavano sopra le fotografie, e però non ne abbiamo purtroppo testimonianza perché sono cose andate più o meno perse. Poi nel 1932 Cab Calloway ha un grande successo con questa canzone, Minnie the Moocher, e in questo momento era molto famosa un personaggio dei cartoni animati che diventerà poi un'icona, che è... Betty Boop. E Betty Boop è stata presa come la protagonista di questo video, che a un certo punto vedremo apparire Betty Boop. Siamo nel 1932 e questo personaggio dei cartoni animati diventa la protagonista di un video. Di lì in poi comincia tutta una serie di filmati musicali che promuovono le canzoni, ma siamo lontani dal discorso video. Un'esperienza interessante sono stati i musicarelli italiani. Tanta roba, ragazzi! Mamma mia! È fantastico! Rimane comunque un mito. Fantastico anche dal vecchio dei Blues Brothers. Sì. E sono stati musicarelli italiani perché attraverso un film raccontavano la storia di una canzone. Siamo a metà anni 60-70 e praticamente raccontavano, ma erano quasi dei film. Sì, manda questo. Erano quasi dei film. Però è stato un fenomeno legato a un certo tipo di musica popolare italiana, quindi c'erano Morandi, la Gigliola Cinquetti, Non ho l'età, queste canzoni. Albano, così. Con Romina, peraltro. Peraltro con Romina. E facevano questi specie di filmati. Il vero, punto di cambio di marcia si ha con questo video qua, che è classico, Bohemian Rhapsody. In realtà non è molto diverso dagli altri video che andavano in onda in quel momento, che erano praticamente dei finti live. In pratica che cosa facevano? Promuovevano la canzone come se fossero o un concerto o una trasmissione televisiva. Un esempio su tutti, per esempio, mi viene in mente Life on Mars di David Bowie, che è in uno studio televisivo e canta la canzone, senza né pubblico né niente, canta la canzone. Cosa cambia con i Queen? Cambia il fatto che loro per la prima volta propongono un'immagine coordinata. Cosa significa? I costumi che loro hanno nel video, l'immagine di apertura del video, i live che porteranno, la copertina del disco, le pettinature che hanno, uguale. Loro propongono una, un filo conduttore che parte dalla copertina del disco e arriva sui palchi live. E il video è esattamente in questo, in mezzo a questo circuito. Quindi in pratica è la prima volta che raccontano una storia che è chiaramente un live, no? E che punta molto sulla teatralità di Freddie Mercury, e il regista, che è Bruce Gowers, punta tutto sul fatto che lui ha una forte presenza scenica, una grande empatia, e quindi cercano di focalizzare tutto su di lui, che sarà infatti sempre messo sotto i riflettori in questo video. 75 è la prima volta che viene fatta questa operazione coordinata su tutto il lavoro di una band, e quindi diciamo che è stato preso questo come primo video, anche se poi alla fine è un finto live, cioè non è che sia diverso dai finti live di altri artisti, però c'è questa particolarità. Tra l'altro sono stati, diciamo, hanno avuto uno studio molto approfondito sui costumi per fare questo tour e questo video, cosa che poi si ripeterà nel futuro dei Queen. Si vede che è proprio lui che è al centro della scena, e queste sono immagini che poi si ritrovano anche sulla copertina, nell'interno del disco. Dal punto di vista tecnico, questo gioco di specchi diventa, diciamo, caratteristico di questo, però poi alla fine sono effetti speciali, cioè, diciamo chiaramente che siamo un pochino agli albori. Sì, siamo un po' lontani dagli effetti speciali che magari vedremo poi con altri. Però, insomma, comunque qui abbiamo un cambio di marcia. Un cambio di marcia che ha portato a una, diciamo, valutazione diversa da parte degli artisti, delle case discografiche, ma soprattutto dei registi, delle opportunità che potevano provenire dal mondo dei videoclip. Perché comunque sia per un regista che cominciava, si apriva un nuovo modo di fare la propria arte. Diciamo che adesso andiamo su una cosa... Abbandoniamo, vabbè, lasciamoli andare così. E vediamo chi sono stati i primi in assoluto su tutto. Allora, il primo video che è stato trasmesso da MTV e che ha aperto le trasmissioni di MTV è stato Video Killer del Radio Star, The Buggles, ed era il primo agosto del 1981. Quindi siamo all'inizio degli anni 80. Il video, francamente, È inguardabile. Ne vedremo un pezzettino, ma non è granché. Però, diciamo, importante di questo video è, a parte il fatto che siamo sempre di fronte a un finto live, però è il fatto che Trevor Horn, che era il leader dei Buggles in quel momento, puntava molto sull'immagine. Si vedrà che appunto è molto curata la parte dei vestiti, degli occhiali, queste cose qui. E è una cosa che Trevor Horn, che poi passa dietro la console di produzione negli anni a venire, punterà sempre molto per gli artisti su cui metterà le mani. L'immagine per lui sarà sempre molto molto importante. Tra il 1 aprile e il 2 aprile nella notte, sempre l'inizio delle trasmissioni, abbiamo mezzanotte e un minuto di un giorno, tra il 1 e il 2 aprile inizia a trasmettere Video Music. Il canale tematico italiano, peraltro, qua di Lucca, e inizia con All Night Long di Lionel Rich. Mentre Video Kill the Radio Star era stato diretto da Russell Mulcahy, che conosceremo approfonditamente successivamente, All Night Long è di Michael Nesmith, che è un regista cinematografico, però il video francamente non è granché. Però anche qui siamo nei primi anni 80, non si può. 81 MTV e anche Video Music 81? No, 83. Si passa poi, si fa un salto di 2 anni e passiamo al primo video trasmesso da MTV Europa, cioè lo sbarco di MTV Europa, che però a noi interessa per un altro discorso, ed è Money for Nothing di Dire Straits. Questo video di Jamin Bricker è importante perché per la prima volta, diciamo, è il video che parla di se stesso. Cioè, dentro questa canzone, che con le immagini si svolge dentro MTV, perché la band suona alla televisione mentre un personaggio di un cartone animato guarda la televisione, diciamo, questa canzone spiega le fasce orarie di maggior ascolto, le cose, come funziona la trasmissione, l'emissione dei video di MTV, che mandare un video in piena notte significa che quel video ha dei problemi di censura, e invece le fasce orarie pomeridiane sono le più ambite. Quindi diciamo che è un piccolo trattato sui video in formato canzone, e ce lo fanno vedere attraverso le immagini. Sempre come primi chiudiamo con il primo video che usa la commistione tra esseri umani che diventano cartoni e cartoni che diventano esseri umani, ed è Take On Me degli A-ha. E Steve Barron, altro nome che ricorrerà spesso, perché poi vedremo che la particolarità di questo percorso che si fa è che gli artisti più o meno sono sempre gli stessi, anche se lavorano con registi diversi. I registi che lavorano sono sempre gli stessi, più o meno sono quelli che puntano molto su questo aspetto, poi più o meno sono sempre quelli che hanno fatto qualcosa di importante, sono sempre gli stessi. Usano uno stile che si chiama rotoscopico, che ho scoperto e quindi ve lo regalo. Si chiama una tecnica per usare per disegnare cartoni animati, che appunto fa virare dall'umano al cartone e viceversa. Ed è la prima volta che succede questa cosa qui per un video musicale di pochi minuti, e siamo nel 1984, quindi siamo proprio all'inizio di questa avventura nei video. Quindi vediamoci in questa carrellata di primi video. Sono pezzettini, perché se no non ce la facevamo a vedere. Yeah. way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do. Money for nothing, it's too free. Questo video qui che gli sdoganava tutto il mondo, non lo conosceva nessuno. Erano i bye bye. È un bel video ancora. Il video ancora oggi è svecchiato bene. A contare di quelli... Di... Sì, quegli altri sì, sono un po' così. Però voglio dire, il video kill di Radio Star non a caso apre il mondo dei video, no? Cioè, una canzone che fa da sparti, perché fino allora la musica si era ascoltata alla radio. E lì è stato un... non è stata una scelta casuale. La musica si ascolta su MTV. Si ascolta su MTV. Si ascoltava. Ma è il motivo per cui... Siamo nella fase successiva. Ma infatti siamo nel motivo in cui siamo tornati indietro. Anche sui video siamo tornati fortemente indietro. Questo è il motivo perché adesso si investe... Per cui siamo qui stasera. Per cui siamo qui. C'è un motivo. Numerosi. Però se questi, diciamo, sono video ancora abbastanza, diciamo, soprattutto quelli dei Buggles o Night Long, sono cose ancora un po'... Non è, sì, diciamo che sono proprio il massimo. Night Long era televisivo, sembrava una trasmissione. Beh, era sì, sembrava una trasmissione, ma è, il concetto un po' era quello. Non è un caso che fosse preso anche quello lì come punto d'inizio della... Sì. Il primo grandissimo successo planetario che ha mantenuto per decenni il primato nel Guinness, certificato di video più costoso in assoluto, l'abbiamo con Thriller di Michael Jackson. Vedremo per intero. Mi auguro. Abbiamo la versione da 14 minuti, ma non ve la... Cioè, non... John Landis. Allora, questo video in pratica è stato scritto da John Landis e da Michael Jackson, che hanno scritto la sceneggiatura insieme. John Landis reduce dal successo di Un lupo americano a Londra, che è un film capolavoro, assolutamente, e praticamente riporta le stesse atmosfere dentro il video di Michael Jackson, dove abbiamo... Da una parte gli zombie, da una parte i lupi mannari, cioè abbiamo un po' di tutto. Tutti gli stereotipi dell'horror l'abbiamo e questo è veramente un piccolo film. La versione originale, che è quella perché ho trovato questa in HD di questo video, dura 14 minuti. Poi ne è stata fatta una versione televisiva che dura 7 minuti perché non potevano mandare 14 minuti di video né su MTV né dopo su Video Music. Questo esce il 2 dicembre del 1983, è la sua prima messa in onda. Quindi diciamo che averci i soldi, 83, averci i soldi, anche allora si potevano fare dei piccoli capolavori, cioè non è che era una cosa... Qui gli effetti speciali si sprecano, sono peraltro ancora molto belli. La voce narrante è quella di un mito, Vincent Price, e una curiosità, poi ce li mettiamo a vedere, due curiosità. La ragazza, quella che fa la ragazza di Michael Jackson, che René mi chiedeva, si chiama Ola Ray ed era una playmate di Playboy. E io ero innamorato. Io ero innamoratissimo. Conferma. Era il motivo per cui guardavo io ero proprio. Credo che abbia colpito l'immaginario di molti. E invece la moglie di John Landis, Deborah, ha disegnato appositamente per Michael Jackson il giubbettino rosso, sì, che poi diventerà una sua caratteristica. L'ha disegnato e, udite, lo scopo di questo giubbottino era far sembrare molto più virile Michael Jackson. Se ci è riuscito, non lo so, però direi di mettere il video che ce lo guardiamo un pezzo, ce lo guardiamo. Il disco che lo sta guardando, sì, bene, sì, che ha sì, ascoltato quel successo del disco. Questo è quello da 7 o dopo? È da 14, ma poi a un certo punto ce lo abbassiamo. Ma è quello da 14? Sì, questo è da 14. Sì, perché comunque c'è tutta la parte iniziale che è bella. Poi arrivano i cornetti. No, ma non lo vediamo. Sì, sì, sì. L'ambientazione è quella tipica degli anni 50 in America, col drive-in, con i vestiti tipici. Quello che ha abbandonato a zombie. So, what are we gonna do now? Sì, sì, sì. I'm sorry, I didn't believe you. Can I ask you something? What? You know I like you, don't you? Yes. And I hope you like me the way I like you. Yes. I was wondering if you would be my girl. Oh, Michael. It's beautiful. Now it's official. I have something I want to tell you. Yes, Michael. I'm not like other guys. Of course not. That's why I love you. No, I mean I'm different. What are you talking about? No, che è successo? No! Ah, no, che è successo? No! No! Dopo c'è di nuovo, ma che non lo so! Senti, me lo metti su YouTube, tanto. Non lo so come mai che è successo. Italiano. Tutto bello, cosa stavo aspettando? Darkness. La ripetiamo. Ma vedi quando ritorno lì. Ah, non so come mai. L'hai tagliuzzato tu. È Garbo. No, non l'ho tagliuzzato io. Giuro, questo non l'ho fatto. È un virus Bowie. Questo non l'ho fatto io. È Bowie che mi appare da tutte le parti. Non lo so che è successo. Quindi che succede? Perché è così diversa Michael Jackson? Te l'ho detto, sono diversa. Che succederà mai? Perché se appare la luna. È diventato David Bowie. È diventato David Bowie. Cioè, se non è diverso. La sua creazione è diventare bianco, quindi. Più bianco di così. Con il duca bianco. Duca bianco. Misteri del montaggio. No, non so questo che sia successo, non me lo chiedete, che è meglio. Forse qua nell'altra cartella. Abbiamo raccontato il video. Ecco, devo trovare anche il punto giusto. Are you alright? Yeah. Questo è il giubbottino virile, quello virile. We'll be right back. lui continua a ballare, cioè intanto è chiaro che questo video ha poi fatto scuola per quello che riguarda balletti, cose di questo genere, è stato veramente una pietra miliare, ha segnato un punto di svolta e ha dimostrato ai registi famosi e ai registi che volevano diventare famosi come il video potesse avere delle potenzialità veramente enormi come mezzo di... come veicolo per farsi conoscere. Comunque John Landis non è stato il solo regista famoso che si è cimentato con i video, quasi tutti hanno avuto la loro incursione nei video. Abbiamo visto Nile Long, che è di Bob Rafelson, che è il regista del Postino suona sempre due volte, però non ha fatto una gran bella figura, diciamocelo, poteva fare di meglio. Ci abbiamo per esempio un'altra performance che non è stata al massimo è Dancing with Myself di Billy Idol, che è filmata da Tob Hopper, anche lì è Billy Idol che balla, poi alla fine non abbiamo altro. Invece Ken Russell ha filmato tutto il film Tommy, cioè si è fatto tutto il film, e possiamo citare Joel Schumacher che ha fatto Batman, ha filmato dei video per gli NXS, Michael Moore ha fatto un solo video e l'ha fatto con i System of a Down ed è boom. Spike Lee invece si è dedicato molto ai video, ha lavorato con Tracy Chapman di Born to Fight, con Prince, con Michael Jackson, che Michael Jackson sempre sarà seguito da grandi registi, farà sempre cose faraoniche, e anche con Eros Ramazzotti nel 93 con Le cose della vita. Invece Luc Besson ha diretto Madonna in Love Profusion, che è peraltro un bellissimo video dove però si vede solo Madonna con un grande vestito alla Luc Besson. Invece ci sono stati dei... mentre qui gli zombie stanno venendo, ci sono sempre più vicini. E... opa. Questo è proprio un film, sì, veramente... Bene. In tutto e per tutto un film. Ed è la film. Ah, un'altra curiosità su questo video. Avete visto all'inizio la scritta che questo non è un video violento, sì, non certo. È un inno alla violenza. C'è un motivo per cui ha scritto questo Michael Jackson, perché era il momento in cui aveva, diciamo, abbracciato, aderito, seguendo la tradizione di famiglia, la religione dei testimoni di Geova, e questa è stata l'imposizione della casa madre dei testimoni di Geova che scrivesse questa cosa prima del video, che non era una cosa violenta. Ci sono stati dei registi invece che hanno legato a doppio filo il proprio nome a degli artisti. Molti registi hanno fatto questa cosa, cioè hanno preso un artista e l'hanno seguito per diverso tempo, e uno di questi è David Mallet, che ha lavorato con parecchi artisti blondi, con Boomtown Rats, così. Però, diciamo, il suo punto di riferimento è stato David Bowie. Ha instaurato una collaborazione con Bowie veramente forte, e inizia la collaborazione con Boys Keep Swinging, che siamo nel 79, quindi siamo proprio all'inizio del... E questa collaborazione, alla fine questo video è solamente un playback televisivo, non è nient'altro. Però inizia questa collaborazione, i due si trovano bene, instaurano un ottimo rapporto e nascono varie collaborazioni. Quindi per Mallet, Bowie interpreta un pittore in Look Back in Anger. Racconta una storia un po' tipo Dorian Gray. Come vedete, si partirà con Ashes to Ashes. Negli anni 80 Ashes to Ashes, poi Fashion. Nell'83, diciamo la svolta più commerciale, se vogliamo, è Let's Dance, che non ci piace, vero? Invece a me piace. Abbiamo rivalutato tutto di Bowie. Tutti capolavori. Ma acriticamente. Assolutamente. Ma diciamo che sicuramente forse è il periodo forse più commerciale, più popolare, diciamo, no? Quello più dove si dà molta importanza all'eleganza, a questa parte. in effetti anche nel video vediamo che proprio la cifra in più la dà l'eleganza. Vediamo un Bowie che suona con i guanti, che è una cosa veramente incredibile, no? Però la canzone è comunque bella, importante, se vogliamo, perché parla della causa degli aborigeni australiani, che in quel momento siamo nell'83, era veramente pesante in quel momento, e quindi diciamo che parlare della crisi degli aborigeni in quel modo, far vedere gli aborigeni australiani che non avevano diritti, che erano vessati, è stata una cosa non da poco. Nello stesso album, sempre girato da Malley, da Mallet, c'è China Girl, altro video importante perché parla della condizione della donna in Cina, e è anche stato un video molto censurato perché alla fine di questo video lui e questa China Girl diciamo brutta, hanno brutta, peraltro veramente bruttina, e hanno un vabbè, pareri diversi. Era ironico, eh? Poi nell'85 gira Loving the Alien. Nello stesso anno arriva Dancing in the Street con Mick Jagger, e chiudono questa collaborazione nel 93 con Under Pressure. Noi ce ne vediamo solo dei pezzettini perché il tempo è quello che è, quindi non possiamo fare molto di più. Vedremo in sequenza Ashes to Ashes, Let's Dance e Dancing in the Street, che sono i tre momenti diciamo cruciali di questa collaborazione. Ashes to Ashes perché diciamo è quella più visionaria, anche qui effetti speciali, si parla di cose veramente agli albori, però per allora era una cosa già interessante, questo gioco su questi colori molto forti, molto sparati. Let's Dance perché abbiamo visto questa eleganza, questo modo, e poi Dancing in the Street perché è questa collaborazione di questi due grandi artisti che si trovano e ballano. We'll be right back. ragazzi. Allora, su questo sono posso essere d'accordo anche io. Invece, come avete visto, ho un po' ceduto con Let That, perché era veramente bellissimo, ammettiamolo, giù. Ma lui? Lui. Sì. Lui. Mallet nel frattempo ha lavorato anche con i Queen, per i quali ha diretto video come Radio Gaga, come I Want to Break Free. Ha lavorato con Freddie Mercury in The Great Pretender e soprattutto a lui gli va ascritto il video con il maggior numero di nudi femminili, che è The Bicycle Race, dove ci sono 55 ragazze. No, non lo guardiamo. No, perché fa veramente, cioè, abbiamo visto, però devi... e niente, comunque è diciamo il video con più nudi femminili, sono 55 ragazze che però oggettivamente poi non si vedono, cioè le vedi passare, cioè ti logri per nulla. Sì, ti logri perché lo sai. Geniale. E questo però ci permette di capire quelli che sono i video, diciamo, che hanno raggiunto dei record. Il record delle visualizzazioni, ma anche questo non lo vedremo, delle visualizzazioni nel minor tempo possibile spetta a Gangnam Style di Psy. Fantastico. E sarà fantastico, ma purtroppo non lo vedremo. Non lo vediamo. Purtroppo. Mi dispiace. Sono già nel posto. No, beh, questo è sì, questo è diciamo un record che ha raggiunto e per ora se lo mantiene lui. Invece il video più costoso se l'è ripreso Michael Jackson. E quello un pezzettino ce lo vediamo. No, aspetta. Si tratta di Scream, diretto da Michael Romanek. Dunque, questo video in realtà non è poi così bello e interessante da giustificare quello che è costato. Poi lo vedrete. Sono Michael e Janet che cantano questa canzone Scream dentro una navicella spaziale e ogni tanto vediamo che sono in assenza di gravità presunta, si pensa. Video in bianco e nero, sicuramente molto curato nei dettagli, però, gente, è costato 11 milioni di dollari. Cioè... Poi... Ma il motivo? E il motivo perché la produzione, la post-produzione, hanno avuto questo costo. E poi nel duetto con i due soli, con i tuoi fratelli, sì, famosi di sì, cioè, però alla fine, se ti guardi questo video... Non siamo è... già anni 90 totali. Siamo già anni 90 totali. Non è assolutamente questo video, cioè non era così... No. Il Silvio insinua che sia andato nello spazio a girare. Girato nello spazio. Allora, ma forse, guarda, se l'avessero forse... girato nello spazio probabilmente avrebbe avuto quel costo lì. In realtà, per essere precisi... Il costo è stato circa 9 milioni di euro, però l'inflazione è andata avanti, quindi nel Guinness dei primati continua a essere... Sì, perché hanno calcolato l'inflazione e al 2016 costa 11 milioni di dollari, che è una cifra... Ce l'abbiamo per fare il video. È una cifra veramente... L'altro video che vedremo insieme a questo è il video più censurato. E il video più censurato è quello dei Prodigy, Smack Me Bitch Up, ed è veramente molto pesante. Racconta la vita londinese, dei locali, di chi si va a sballare nei locali, e lo fa, diciamo, sono due le cose per cui è uno dei più. Primo perché è stato più censurato e questo non glielo toglie nessuno. L'altra particolarità è che è girato come se il protagonista, quello che vede il protagonista, in soggettiva è girato. Questo fa sì che questo video ci faccia vedere tutto quello che vede il protagonista, fino ad arrivare in fondo che si scopre che il protagonista è una donna. Si becca un altro record, è stato il video più contestato a livello di associazioni di donne, perché siccome vedremo un pezzo, ma non tantissimo, sinceramente, anche perché comunque ho trovato la versione, quella migliore era quella censurata già da MTV, e quindi alcune cose sono state, diciamo, un po' sfumate. Però questa protagonista usa violenza a altre donne, picchia uomini, picchia donne, si droga con tutte le droghe possibili e immaginabili, beve mentre guida, ne fa vomita, vabbè, politica di corrente, fa be- no, guida la macchina, sì guida la macchina in pieno trip, si ruba la macchina, fa di tutto, e il fatto che abusi di donne è stato fortemente criticato dalle associazioni femminili, perché dicevano che metteva in cattiva luce le donne e sminuiva le violenze subite dalle donne in contesti familiari. Vabbè, queste sono, diciamo, notizie a margine in pratica, però nonostante tutto questo, nonostante che MTV l'abbia passato esclusivamente alle 4 di notte questo video nella versione censurata e non lo passasse altre ore, nell'anno che è uscito, cioè nel 98, ha beccato 4 nomination e 4 premi come miglior video dell'anno, come miglior breakthrough, migliore regia, e che è di Jonas Åkerlund, un norvegese abbastanza pesante, e miglior video dance. Quindi questo, diciamo, entra per forza nell'Olimpo dei video più. Poi ci ritiriamo un pochino su con qualche immagine che invece ci viene da uno dei nostri registi preferiti, che è Michel Gondry, che invece ha girato per i White Stripes un altro video molto premiato, che ha ricevuto tutti i riconoscimenti possibili da parte di MTV, ed è Fell in Love with a Girl. Allora, la particolarità di questo video, che è girato tutto in stop motion, con molti altri video, quindi questo non sarebbe di per sé una grossa particolarità, è che è tutto creato con mattoncini Lego, cioè ogni singolo fotogramma è creato con mattoncini Lego. La cosa, diciamo, più carina è che quando gli servivano questi mattoncini Lego, che sono un'infinità che gli servono, Gondry e Jack White sono andati dalla Lego a dire: signori, noi abbiamo questo progetto, se volete partecipare, partecipate con noi, dateci il mattone. Fondamentalmente dateci mattoncini. La Lego disse no, ma anche no, non ci interessa, ve li comprate. Gondry e Jack White erano in Francia, fecero il giro della Francia e seccarono tutti i negozi di giocattoli prendendo i mattoncini. Veramente non si trovava più confezioni Lego nella zona Parigi centrale della Francia, perché le avevano prese loro. Quando la Lego si è accorta di quello che aveva fatto, cioè al momento che questo video è stato riconosciuto come un capolavoro, ha detto: ma per caso vorreste mettere il nostro logo? Vi daremo anche qualcosa se volete. E chiaramente Gondry e Jack White hanno detto: no, grazie, ormai abbiamo fatto. Anche perché nell'immagine iniziale del film vediamo un bambino che costruisce i primi numeri, e questo bimbo è il figlio di Gondry. Io penso si sia trovato con la casa invasa da mattoncini Lego, perché qualcuno se li deve fatto una casa. Tutto questo avveniva prima che la Lego diventasse quella, diciamo, quella grande multinazionale potenza che ora fanno tutto enorme, fatto con i mattoncini Lego. Quando è successo questo, quando hanno fatto questo video, tutto questo non esisteva, e la Lego ci facevano i bambini le casine, invece loro l'hanno visto così. Quindi vediamoci un po' di video da record. Più costoso. 11 milioni di dollari. Questo è già un milione, si è dato via. C'era anche il mangiadischi. Jammer di Peter Gabriel, che è anche lui ha un record, che è il video in assoluto più premiato. Esce nell'86 questo video e è diretto da Steven Johnson e vede all'opera due diverse case di animazioni: la Adelman Animation, che è quella che si occupa della parte in plastilina, per capirci, i polli, quando ballano i polletti, galline in fuga. Più o meno sì. E i Brother Quay, che si occupano invece di tutta la parte di Peter Gabriel. E questo video, diciamo, la particolarità è proprio il fatto che, girato in stop motion, come altri che abbiamo visto, come anche quello degli White Stripes, stop motion sarebbe questa tecnica per cui ogni singolo fotogramma è una mossa, è una mossa che si vede, che fa. Quindi praticamente, se uno deve andare di qui a lì, ci può mettere due giorni, perché devono fare ogni fotogramma e poi montano in sequenza. Questo ha significato che per Peter Gabriel è stata una bella prova, perché per diversi giorni, 4 o 5 giorni, è stato per 16 ore sotto una lastra di vetro, per poter riprendere ogni singolo fotogramma del video che andiamo a vedere, e che giustamente è stato premiato e è diventato quello più premiato in assoluto. Vai. Oh. questo resta un video che al pari di Thriller direi che sono quelli che hanno segnato dei punti fermi. C'è una classifica dei 100 video più belli della storia, ma 100 dischi più... Sì. Il primo posto chi c'è? Questo? Pensa a te. E poi c'è Thriller che rimane in cima alle classifiche, e poi troviamo Radiohead, troviamo Rem, troviamo sempre i soliti gruppi. Questo è bellissimo. Questo rimane, e comunque poi veramente io mi chiedo come faccia una persona a stare, perché tutte le volte che gli si sposta una sciocca di capelli significa che hanno preso, hanno spostato lo sciocco di capelli, hanno fatto quel fotogramma e poi hanno spostato il capello accanto. Io, cioè, chapeau per la sua pazienza, perché io veramente non so quanto avrei resistito. 2 minuti, ciao, va bene, fatevelo come vi pare. Comunque, come dicevamo, molti registi hanno legato il nome a un artista. Così lo sai, Arnon Levine è il regista di Bruce Springsteen, il quale ha provato a farlo recitare e ha visto che non era proprio il suo, la recitazione non era proprio la sua cifra, e ha deciso di riprenderlo sempre sul palco con il live. Infatti i video di Bruce Springsteen sono dei live sostanzialmente. Invece, per così come notizia, vi posso dire che Clive Richardson è il regista di Depeche Mode. Tutti i video di Depeche Mode sono firmati da Clive Richardson. What? Eh? No. Anche Anton Corbijn. Sì, vabbè, diciamo quelli del fino a Question of Lust. Mm. Fino a Question of Lust sono tutti di Richardson. E diciamo che invece quello che ci approfondiamo un pochino di più è Russell Mulcahy, che abbiamo già trovato in Video Killer the Red Star, e che invece qui lo vediamo alle prese, sì, che qui fa un passo un po' successivo, lo vediamo alle prese con i Duran Duran. No. Probabilmente i Duran Duran oggi non sarebbero i Duran Duran se non avessero avuto alle spalle Russell Mulcahy. Perché... Quindi va picchiato. Quindi va picchiato sostanzialmente. No, vabbè, ha dato un senso alla carriera, li ha presi proprio all'inizio con Planet Earth e li ha portati fino a Wild Boys. Tutti i video hanno seguito un filo. Con Planet Earth fissa i canoni del New Romantic. Il New Romantic era questo movimento così che tutto Trini e Merletti, e che aveva vari personaggi, Adam e The Ant, il primo che mi viene in mente, però diciamo che non aveva dei canoni fissati. Nel momento in cui Mulcahy prende per mano i Duran Duran, fissa questi canoni, che sono questi capelli cotonati con la falda così, e i pantaloni in un dato modo, un po' sbuffati, e fissa questi punti. Poi il successo arriva per i Duran Duran, e i Duran Duran decidono di proseguire la loro carriera, che non era cosa che in quel momento non era così scontato, perché avevano avuto qualche problema con le case discografiche, così. Azzeccano il disco successivo e lui gli crea un nuovo modo di fare, di fare video. Siamo nel 1982, quindi prima di Thriller, e per la prima volta il cantante e i musicisti diventano attori. Il video è Angry Like the Wolf e loro ora diventano attori, è una parolona. Recitano, però diciamo recitano a soggetto. Si va ancora avanti e nei successi che vengono dopo, che sono Save a Prayer e Rio, fissa un altro punto fermo. Dopo averli fatti diventare attori, li fa diventare di successo, cioè il simbolo di successo. Allora, come si può identificare il successo? Sono io. Ci sei vicino. La spiaggia dei Caraibi. La bionda prua. La spiaggia bianca, il mare, questi scenari così molto estivi, molto... che sarà una cosa, cioè a noi ora ci sembra normale, no? Perché comunque sia le pubblicità ci rimandano queste immagini. Allora non era così, siamo a metà degli anni Ottanta e non era questo l'immagine della felicità, del successo, di quello che funziona bene. E invece da quel video lì pubblicità e calendari cominciano a mettere queste immagini come quelle che il sogno da raggiungere. Poi si va ancora avanti. Si va ancora avanti e a questo punto la band è di successo. Il successo è arrivato, tutti vogliono sposare, tutte vogliono sposare Simon Le Bon. Come facciamo a dimostrare questo successo? Facciamo The Reflex e mettiamo la band in mezzo a un'arena piena di persone urlanti. Questo diventerà da questo momento in poi il simbolo del successo di una band. Una mega arena con tantissime persone che li acclamano. E poi si arriva all'apoteosi, che è The Wild Boys. Il successo a questo punto è arrivato e quindi ci possiamo anche dare agli effetti speciali. E quindi abbiamo questo video con queste figure strane, così, dove la band c'è, non c'è, si vede riflessa nei video, non è presentissima. Ma tanto ormai il successo c'è. L'abbiamo creato e abbiamo fatto tutto il percorso dei Duran Duran, che poi di qui in poi declineranno tra l'altro. E noi ce li vediamo un pezzettino di ognuno, perché se no ci potevamo stare fino a domani, però ci rivediamo. Arriva a cantare, ma I'm not afraid to die. Voltiamo decisamente pagina e andiamo a un video totalmente diverso. Cambiamo, facciamo proprio un salto e andiamo a uno, personalmente uno dei miei video preferiti, che è Losing My Religion the Rem. Allora, questo video è stato fatto da Tarsem Sig, che è un regista che ha fatto pochissimi video, si è dato poi al cinema, va bene, con alterne fortune. Il video è del 91 e chiaramente ha avuto numerosi riconoscimenti. Oltre a essere una bellissima canzone con un bellissimo video, molto suggestivo, molto con delle immagini molto belle, diciamo che c'ha due particolarità, molto poetico, ha due particolarità. La prima è che fa ballare Michael Stipe, che di qui fino a qui non aveva mai ballato, non voleva ballare, ha litigato fortemente con Taz, no, perché poi dopo di lì poi diventerà un suo tratto caratteristico, quindi scopre che tutto sommato poteva muoversi anche lui. L'altra cosa è quella di animare quadri, che forse è la cosa più importante. E il filo conduttore, essendo Losing My Religion, è la religione. Prendono dei quadri che illustrano tutte le religioni del mondo, non è che fanno una scelta su delle religioni, e gli danno vita attraverso i personaggi. Questa è la prima volta che vengono fatti vivere i quadri, con un risultato veramente fantastico. Una cosa che farà scuola e che troveremo poi in moltissimi altri video, che è stata copiata da un'infinità, ve ne cito due soli, e uno è Elton John e RuPaul in I Don't Go Breaking My Heart, che è una sequenza di quadri fatti vivere, e l'ultimo, proprio ultimissimo ora, è uscito da poco, è dell'Imagine Dragons Shot, che fa vivere i quadri di un pittore americano, John Pintor. Quindi questo video ha fatto scuola e noi ce lo vediamo religiosamente, come Losing My Religion. Come giusto. Successo tutto. Sì, ce lo vediamo tutto. Oh. Brava. Con volume. Poi anche il mandolino. Penso che era andato. Qui. Thank you. prima, che ci sono degli artisti che hanno investito sempre in tutta la loro carriera nei video. Un gruppo sono i REM. In fondo alla cartellina trovi Mix REM, mettilo un attimo. Ho infilato REM vari, ho infilato insieme questa canzone, è clamorosa che tutti la cantano, sta qui, anche chi non sa l'inglese. Sì. È una canzone senza ritornello, infatti, cioè del misterioso. Sì. Come... è una canzone pop, perché sì, però senza i canoni pop. Senza i canoni pop. C'è il mandolino. Però non è che... Si vede una serie di video sparsi della carriera, non in ordine cronologico, perché per dimostrare che loro hanno, con qualsiasi canzone, hanno investito veramente nell'immagine video. Vai. Presidency, where we sick of being shirked around. Women are on your sleeve. passa avanti e indietro continuamente. Sono pochi secondi, sì, sono sì. gli zoom. Neanche secondi. Ah, sì, sì. Sono GIF. Su una canzone è la dimensione in più importante. We'll be right back. diciamo che questa è la dimostrazione che anche senza 11 milioni di dollari si possono fare grandi video, magari forse anche più interessanti della navicella che abbiamo visto prima, no? Magari non per essere, però secondo me meritano molto di più questi qui. In questo viaggio attraverso i video incontriamo dei registi importanti. Uno di questi registi, forse diciamo quello anche più conosciuto, è Michel Gondry. Michel Gondry, parigino, nato a Versailles nel 63, è chiaramente forse il nome più conosciuto in assoluto. Ha legato la sua carriera molto a Björk, per la quale ha diretto vari video, forse il più famoso di tutti è Human Behavior, che vedremo un pezzettino. Lui è sempre stato molto affascinato da tutto quello che è il mondo dei trucchi cinematografici e quindi nei suoi video cerca sempre di sperimentare questi trucchi, questi effetti speciali. E l'altra cosa che lui, gli altri due elementi che ricorrono nei suoi video sono l'ossessione per le mani, lui mette spesso in primo piano le mani, e poi l'importanza dei sogni, dei riflessi, delle cose che si specchiano, il sogno come specchio. Diciamo che lui nasce come musicista e successivamente diventa regista di video, meno di film. Ha fatto anche qualcosa al cinema, ma non con grande fortuna. Noi lo vediamo anche qui per avere un pochino di visuale su quello che ha fatto. Vediamo il primo video in assoluto che lui ha girato, che è Believe di Lenny Kravitz, e siamo nel 93. Il secondo video che ha girato, che è Human Behavior, sempre nel 93. Poi un video che è diventato, anche questo è entrato nei 20, non nei 10, ma nei 20 video migliori, che è Around the World Daft Punk, che è semplicissimo, perché poi alla fine non c'è veramente niente in quel video lì, però questo movimento ciclico che fanno questi ballerini è diventato, ha fissato un canone per quello che è il video del dance. Poi vediamo Let Forever Be the Chemical Brothers, dove ci dimostra cos'è per lui il riflesso e il sogno, e Coming to My World di Kylie Minogue, siamo nel 2000, nel 2002 a questo punto, sempre con la canzone è quello che è, però il video è veramente bello perché vediamo una Kylie Minogue che si moltiplica fino a diventare 5 Kylie Minogue camminando. E poi chiudiamo con Go, sempre dei Chemical Brothers, ultima produzione che ha fatto del 2015, dove ritorna un po' verso i Daft Punk, cioè ripropone qualcosa simile a quello che aveva fatto con i Daft Punk, perlomeno certe figure geometriche ritornano. E quindi vediamo un po' la sua carriera attraverso le sue immagini, che poi... Thank you. Wilson, perché fa così? Fa così. Andiamo avanti. I Police, ma non li vedremo perché è troppo tardi. E comunque i Police anche loro hanno legato il loro nome a un regista unico che li segue fino al 1981, Invisible Sun, che comunque è il momento, diciamo, fino lì è diciamo la cosa principale. Sono, ecco, sì, mettiamoli così in sottofondo. Loro praticamente dal 78 cominciano a lavorare con Burbridge e li fa lavorare in studio molto come in questo video qui, che vediamo che è che Stan Losing You, poi du du du da da da che non vediamo comunque, non c'è niente brutto. E poi li porta a anche a recitare, e gli cambia un pochino la, diciamo, la, il passo cambia, perché comunque sia la band di successo dei tre ragazzi biondi belli, diventa anche video con Do Stands Close to Me, dove Sting in persona un professore, cioè, sinceramente era un altro che ci avevo messo, perché vale la pena, vi ci avevo messo Cali Minogue, signori, E potrei poi fa meglio. Però prendiamo il pensiero, però. Sì, prendiamo il pensiero. E poi li segue ancora in Every Little Thing She Does Is Magic, dove ritornano in studio ma recitando, e infine nell'81 con Invisible Sun cambia completamente il tipo di video, e praticamente il video assume più un contesto sociale di critica ai paesi militarizzati, così, e è girato in bianco e nero, è molto, diciamo, più d'atmosfera rispetto, e loro sono sullo sfondo, non praticamente non si vedono più, e qui si interrompe la loro collaborazione, ma si interrompe anche in fondo l'importanza visiva dei Police, che comunque di qui in poi cominceranno a fare video, a ripetersi un po' nei video. Quello che invece vogliamo un pochino più vedere è Jonathan Glazer, che è un regista che ha lavorato con moltissimi artisti, molti dei quali attenti a, come Irem, all'aspetto visivo, alla forma visiva della loro musica. Glazer entra nel mondo dei videoclip negli anni 90, quindi diciamo che è già stato detto molto su questo, in questo settore, quindi inventa alla fine molto poco, però i suoi video sono ben caratterizzati, hanno sempre dei tratti comuni, e sono diciamo anche interessanti dal punto di vista visivo. Lui comunque è un regista che si darà poi al cinema e vincerà anche qualche premio. Suo, per esempio, è Bert, io sono Sean con Nicole Kidman, e noi qui lo vediamo in The Universal, The Blur, Virtual Insanity di Jamiroquai, Karma Coma dei Massive Attack e Karma Police dei Radiohead. Perché questi quattro video? Perché dimostrano quello che è l'immaginario di Glazer, che in pratica è molto, diciamo, abbastanza claustrofobico, ama i colori. Il bianco, ama molto il bianco, e è abbastanza ossessivo e angosciante nelle sue riprese, nelle sue immagini. Questi quattro video, che sono anche i nomi più importanti che lui segue e con i quali farà vari lavori, dimostrano bene quella che è la loro, che è il suo mondo visuale. Andrei direttamente a Glazer. Ci lasciamo alle spalle. No, non granché. Yeah. No, devo dire qual è lo scoop, che è importante anche per la cloud. Qual è lo scoop che gira su internet? La notizia che gira ultimamente su internet è che il leader dei Massive Attack sia Bansky. Siccome l'ho conquistato con Bansky. Assoluto, è Spike Jonze. È, cioè, secondo me qui si raggiunge veramente il top. Il suo vero nome è Adam Spiegel ed è nato il 22 ottobre 69, quindi fra poco gli festeggiamo anche il compleanno. Ecco, ecco. Uno scorpione. Sì, è uno scorpione. Allora, lui è fondamentalmente un genio. Cioè, basta così. Inizia a studiare fotografia, passa poi a studiare coreografia, diventa lui stesso ballerino con risultati che non sono proprio al massimo. Insomma, vabbè, questo. Siamo al top. È lì che balla anche lui. Certo, qui balla anche lui. Questo video, nonostante sia accreditato a lui, non è veramente accreditato a lui. Lo vede, lui protagonista, è girato con una videocamera amatoriale e il regista è Roman Coppola. Ed è il fratello di Sofia, figlio di Francis Ford. In questo momento, nel momento di Preview, Spike Jonze stava con Sofia Coppola e quindi il cognato gli ha fatto il video. Con la Torrent Dance Community. Il video è suo, ma lo gira la telecamera il cognato. Il cognato, sì, cioè come se fossimo in piazza. Tieni un attimo la telecamera. Il video è suo. L'idea è sua, lui mette in piedi questa compagnia di danza che dopo vediamo e che è un po', diciamo, amatoriale. Però, nonostante questo, ha un successo tale questo video, che è il primo, diciamo, flash mob della storia, questo qui. Ha un successo tale che questa compagnia di danza viene chiamata a esibirsi nelle manifestazioni, agli Oscar, agli MTV Awards, a delle feste. questi vengono scritturati e sinceramente poi vedremo, non è che sono proprio il massimo come ballerini. Però vabbè, in tutto ciò il video è veramente fantastico. Nel 2001, tra l'altro lui qui si non, nei crediti si firma con uno dei suoi mille diversi pseudonimi, che è Richard Coffey, ma ne ha moltissimi, lo troviamo con tantissimi nomi perché non è uno che sta molto fermo. Un altro video importante è del 2001 ed è uno dei 10 video più importanti della storia, ed è Weapon of Choice con Christopher Walker che balla volando. Questo video, oltre a essere un'esibizione di Christopher Walker veramente grandiosa, è alla base anche di quello spot che sta girando adesso e che sta ricevendo i premi più importanti nel mondo della pubblicità di questi giorni, che è quello di Kenzo, che alla fine sta riproponendo la stessa cosa. Invece di essere Christopher Walker, è una modella che è la figlia di Andy McDowell, che si stufa di stare a un ingessatissimo pranzo e comincia a ballare come fa Christopher Walker. Poi abbiamo suo un altro video tra quelli, tra i 10 più importanti, ed è Buddy Holly de The Weezer. Non è che sia una canzone che ha fatto un successo, però questo video continua a essere importante per quale motivo? Perché si svolge all'interno di Happy Days, cioè come se i The Weezer fossero da Alfred, con Alfred che li presenta. Cioè è un lavoro anche questo sopraffino, fatto benissimo, e riesce, tra l'altro questo di Buddy Holly è del 94. Poi altri video suoi che vedremo un po'. È It's So Quiet di Björk, dove Björk balla, cioè una Björk leggera, riesce a alleggerire moltissimo Björk. Poi per esempio ci abbiamo, ha lavorato con Lady Gaga, con Kanye West, con gli Arcade Fire, ha fatto film con gli Arcade Fire, suo è Essere John Malkovich, che è un film geniale peraltro. E niente, Spike Jonze, Beastie Boys? No, Beastie Boys... Tu ti faccio la cappella. Beastie Boys non ce l'ho messo. C'è il video più bello del mondo. Sa quanti ce ne sono di video più belli del mondo? Io direi di vedercelo, Spike Jonze. Non hai detto di Fatboy Slim, dillo. Fatboy Slim. I due video, Weapon of Choice e Fatboy Slim, altro che punta moltissimo sull'immagine, peraltro, che... I suoi video sono tutti belli, difficilmente ha fatto un video che non è degno di nota. Quindi questi i primi sono di Fat Boy Slim, sì, ok. Siamo Umana per eccellenza, Christopher Walken, capolavoro, cioè, d'uomo, genere umano, ma non fa niente di meglio. No, questo è quello dopo, e quindi ci fermiamo un momento, perché questa immagine qui ci introduce al prossimo regista, che invece è Chris Cunningham, che è il penultimo Così si va presto a letto. Allora, lui era stato assistente di, per gli effetti speciali e nominato all'Oscar per Alien 3 e nominato all'Oscar anche per Hellraiser 2. È stato, doveva realizzare con Kubrick un progetto sulla cosa artificiale, sull'intelligenza artificiale, ma questo progetto poi non ha mai visto la luce, quindi è rimasto così. La sua passione per la fantascienza, per gli effetti speciali e per, diciamo, un horror un po' particolare è abbastanza evidente nei video che ha prodotto e gli artisti con cui ha lavorato. In particolare con Aphex Twins, con quale ha fatto moltissimi video, di cui noi vedremo solo un pezzettino di uno e anche troppo, che è Come to Daddy, è abbastanza pesante. Poi ha lavorato molto con Bjork, con la quale ha fatto, diciamo, vari video. E il più bello, il più premiato è stato questo qui, che è All is Full of Love, dove due androidi, due robot, hanno una storia d'amore molto umana. E questo, tra l'altro, secondo me è un video di una poesia veramente incredibile. Poi ha lavorato con i Portishead, ha lavorato con Madonna e vedremo proprio i Portishead e Madonna in Only You e Frozen, che è uno dei video più belli di Madonna. Perlomeno più belli, forse più scuri, non forse il più bello, però molto significativo di questo regista che predilige toni scuri rispetto a quelli chiari. Direi di vederlo, che forse parlano più le immagini. Thank you. us all. And now I am weary and I feel like I'm blue. It's only you who can tell me apart. And it's only you who can turn a wooden heart. L'ultimo regista che incontriamo in questo viaggio prima di arrivare agli ultimi video, all'ultimo momento, è una regista, è Floria Sigismondi, che nasce a Pescara nel 65 e a 2 anni si trasferisce in Canada e cresce in Canada, è figlia di 2 artisti, sono 2 cantanti lirici, i suoi genitori, e vive, respira il mondo dell'arte fin da piccola. Studia fotografia, studia cinema, studia arte, si appassiona all'arte gotica e alla fantascienza, tutto quello che è comunque abbastanza oscuro. Infatti comincia la sua carriera lavorando con Marilyn Manson, un tipo allegrone, e dirige Tourniquet. Poi lavora molto spesso con David Bowie, per il quale per esempio nel 96 ha diretto Little Wonder. Ha lavorato con Bjork, ha lavorato con Leonard Cohen e con i Cure, con i Muse, e ha diretto tra gli altri video The Next Day, che è stato uno dei video più criticati di David Bowie, perché mostra, diciamo, lei mette focalizza sempre, diciamo, aspetti controversi della realtà, non focalizza mai la cosa. In questo caso qui fa vedere le festini con dei preti che in abito talare se la spassano allegramente, e quindi il video è stato pesantemente censurato. Siccome noi siamo invece così molto sì, proprio. Allora, ci vediamo dei pezzettini da Tourniquet, My Secret Life di Leonard Cohen, che Leonard Cohen è un altro che non è, che è molto, molto spesso troviamo nei video, sono molto rari i video di Leonard Cohen, quindi il fatto di aver lavorato con la Sigismondi per fare questo video, diciamo, secondo me meritava di vederlo. Poi vediamo un pezzettino di Supermassive Black Hole dei Muse e poi The Next Day. Così. Ok. Siamo anche qui a atmosfere molto gotiche, molto scure. This morning. La Floria negli altri video, ma penso che The Next Day meritasse essere visto tutto, tutto sommato. Diciamo che tutto quello che era stato, tutto quello che c'era da dire sui video è stato detto negli anni 90 e negli anni 80. Dagli anni 2000 in poi, forse anche con l'avvento dello streaming musicale, del fatto che la musica se ne usufruisce anche su altre piattaforme, il video è passato un po' in secondo piano. Non sono più, purtroppo, molte le band, i musicisti che investono nei video. Scusate. Non ce ne sono più molti. Quelli che lo facevano continuano a farlo. Altri si adagiano su quello che era il passato. Siamo un po' tornati indietro, siamo un po' tornati come ai primi video, quando si parlava di finti live, di palestre con la festa scolastica, dei ragazzi che suonano come fossero la band giovanile. Ecco, siamo un po' tornati a questo adesso. Però ci sono delle eccezioni. un'eccezione, vabbè, ci sono intanto degli stereotipi che sono stati fissati e sono, purtroppo non sono proprio stereotipi molto validi. C'è un filone trash di video, che sono le varie Nicki Minaj, Katy Perry, tutte queste belle ragazze e che fanno video un po', diciamo, trash. Poi c'è quello appunto dei finti live e poi ci sono delle eccezioni. Un'eccezione, devo dire un po' anche una scoperta per me quando mi sono approcciata al discorso dei video, è stata Lady Gaga, che io ho sempre sottovalutato, ho sempre pensato che Lady Gaga fosse il trash al massimo. Invece devo dire che mi sono ricreduta, ha un suo perché, anche se sembra strano dirlo, perché comunque io ero sempre stata fermamente convinta che dopo ci fosse poco, e invece ha un suo perché, segue un suo filone artistico, è molto attenta a quello che è la sua immagine, vuole scandalizzare, lo fa scientemente. E questo per me la rivalta, comunque sia, perché se è una scelta non economica, ma perché hai una tua idea di arte e la vuoi presentare in quel modo lì, anche se ti metti il vestito di pelle di bovino, come si è vestita lei, può avere un suo perché. Ora è l'ultima Lady Gaga, che tra l'altro vedremo un pezzettino, è quella che si è ripulita da tutte le sovrastrutture, si presenta con una codina, trucco molto leggero, e la sua immagine si è ripulita in questo momento. Poi vedremo che magari ricambierà pelle altre 100 volte. Un altro gruppo molto importante ora sono i Coldplay, che investono tantissimo nell'immagine video, fanno sempre dei video molto belli. Noi vedremo un pezzettino di Up and Up, che probabilmente, scommettiamo, quest'anno sarà il video migliore, sarà quello più premiato agli MTV Award di quest'anno, perché effettivamente è un video molto bello. Abbiamo i Muse, che abbiamo visto qui con Floria Sigismondi. Loro fanno sempre dei video bellissimi, ma se abbiamo finito! E poi abbiamo i Radiohead, che vediamo con Burn the Witch, fatto da Chris Hopewell, che ha fatto il regista anche per There, sempre dei Radiohead. I Radiohead li abbiamo trovati già varie volte. Un altro gruppo che ci investe molto nell'immagine, che crede che l'immagine sia tuttora una cosa molto valida. Abbiamo pezzettino dei 30 Seconds to Mars, altro gruppo che ha puntato molto sull'immagine, creando due filoni diversi, uno cinematografico e uno invece di live, inaugurando il live, me lo metti proprio un momento, è il live Lucca, cioè 30 Seconds to Mars Lucca, dove fa parlare i propri fans, cosa che poi hanno fatto quasi tutte le band che si rivolgono ai quindicenni. E noi nel mix di oggi lo vediamo qui, sì, questo pezzo qui è tratto, cioè vediamo Lucca in questo brano qui. È dall'inizio? Sì, ok. E praticamente hanno inaugurato questo filone dove i fans sono i protagonisti della cosa, vabbè, quest'ora poi ce lo lasciamo in sotto. E poi un altro artista che ritroviamo in chiusura proprio della serata, ritroviamo Peter Gabriel, che è uscito adesso con The Veil, è la canzone che fa da titolo di coda sul film di Oliver Stone, dove ci dimostra che una canzone cinematografica può essere comunque un momento anche di denuncia, e tra l'altro diciamo un documento abbastanza interessante, perché mostra Snowden, che è in questo momento rifugiato in Russia, si sta nascondendo dagli americani che lo vogliono incarcerare, e appare nel video di Peter Gabriel, invece appare proprio Snowden, quindi tuttora l'abbiamo trovato all'inizio di serata, lo ritroviamo alla fine con questo fatto. Mix oggi. Ben scena, la facciamo. Sparte con Lady Gaga. Sì. Thank you. this is a gift. On the mountains, there's no gold rush. Through the bloody canals, see the knives that turn. From the council on the side, winds down with the air. Abbiamo sicuramente visto il video migliore dell'anno, probabilmente la canzone premio Oscar dell'anno, quindi diciamo che abbiamo le ultime, gli ultimi successi li abbiamo visti. Spero che... Questo è Luca. Questo è Luca, era quello che dicevo prima dei 30 Seconds to Mars. È il fan dei 30 Seconds to Mars che è nel video di Do or Die, che è stato ripreso e ha dato il via a questo filone di video. Spero che abbiate un'idea. È MTV viene giudicato positivamente. La riabilitiamo MTV. Ma io sì, perché comunque è una forma d'arte. Quindi per me sì, perché alcuni alcuni magari no, però cioè, te vedevi questi grandi registi alle 4 di pomeriggio. Alle 4 di pomeriggio, ma tranquillamente. Quindi sì. No, c'è ancora meno. Però la prossima puntata quando vabbè, ora, qualunque video lo puoi vedere in qualunque momento su YouTube, cioè, sì, no, è diverso. È cambiato proprio. Sì, è più individuale. Brava. L'appuntamento adesso è per il 14 di ottobre quando ci sarà la serata su Team Jeff Buckley. Ma sabotaggio.